English 24. Un saluto da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa è l'ultima puntata del nostro English 24 per questa stagione. Vi terremo comunque compagnia ogni sabato alle 19:15 con il meglio delle nostre interviste di English 24, così di questi mesi. Poi torneremo come al solito con le nuove puntate a settembre, però vogliamo chiudere con un'intervista che ci è piaciuta moltissimo, un'intervista che Giulia mi ha segnalato dal podcast dell'Economist, ottimo podcast. Le due persone che sentirete parlare sono Peter Collins, che è l'online business and finance editor, che, attenzione, lo diciamo perché lo sbagliano sempre le traduzioni, non è l'editore, ma semplicemente lui si occupa di questo settore. Con lui c'è Joel Budd, che è il media editor sempre dell'Economist. Li sentiamo parlare di un tema molto delicato, che è il tema del presente e del futuro del giornalismo dopo un periodo di crisi molto difficile. Like Mark Twain, we in the newspaper business would like it to be known that the reports of our death are greatly exaggerated. In this week's issue, we report that papers in America and many other places around the world are actually doing pretty well, despite widespread predictions of their impending extinction. They're not rolling in money like they used to be, but many are still making decent profits. Joel, many American papers have come through the recession by cutting, in particular, cutting the jobs of journalists. Trying to be objective about this terrible threat to our livelihoods, does this make business sense, or do they risk fatally undermining the quality of the product that they're trying to sell? Well, that's a risk, but I think it's a risk they absolutely have to take. Journalists aren't the only thing these newspapers cut, and they also didn't cut sufficiently to maintain the sort of 20% profit margins that they enjoyed a few years ago. They also, for example, cut the cost of collecting advertisements, and they cut the size of paper they printed on, they cut the thickness of the pages. Intanto si parte con una citazione colta che mi è piaciuta particolarmente. Perché ha tirato fuori Mark Twain? Perché appunto una volta è capitato che era circolata la notizia falsa che Mark Twain fosse morto, e lui con grandissimo spirito, anziché smentire ufficialmente o magari anche arrabbiato, usò questa espressione un po' più colorata, un po' più eufemistica, dicendo "The reports of my death have been greatly exaggerated". Cioè, c'è stato un po' di esagerazione. Io in realtà non sono poco o molto morto, non sono morto per niente, questo era un po' il senso. E la stessa cosa, insomma, vogliono dire loro, we in the newspaper business, cioè noi che ci occupiamo di newspaper, tecnicamente proprio i quotidiani, però appunto è un discorso del giornalismo stampato più in generale. E stiamo parlando dell'America, degli Stati Uniti, ma non solo, in many other places. Quindi c'erano questa impending extinction, no? Questo appunto il reports of the death, il fatto che si parlasse di morte oppure di estinzione che stava per arrivare. Impending, che appunto sta per arrivare, beh, they're actually doing pretty well. Qui abbiamo il nostro carissimo altro false friend, actually naturalmente non vuol dire attualmente, ma in verità. Quindi in verità they're doing pretty well. Non stanno andando così male adesso, naturalmente dopo la ristrutturazione che c'è già stata. Quindi c'è crisi e sì, appunto si usano le forbici. Quindi they have come through the recession. To come through something vuol dire superare, quindi attraversare, perciò uscire dal tunnel. Quindi sono usciti dalla recessione by cutting, perché adesso they are not rolling in money, quindi non si rotolano nel denaro come forse succedeva una volta, but they're making decent profits, quindi stanno facendo degli utili decenti. Senza mezzi termini, a terrible threat. Terrible threat to our livelihood, perché l'Economist ne ha scritto più volte e ha anche detto che probabilmente ci saranno altri cuts proprio nei journalist jobs, perché naturalmente una newspaper organization è fatta di giornalisti ma anche di tante altre funzioni, però quelli che sono stati tagliati sono sicuramente stati i lavori dei giornalisti. E lui però, Peter Collins, chiede mestamente, beh, journalists are the only thing they cut, cioè hanno tagliato soltanto i giornalisti, chiede al suo collega media editor Joel Budd, che risponde, well, it's a risk they had to take, è un rischio che hanno dovuto correre, perché naturalmente tagliare i giornalisti vuol dire tagliare quelli che poi fanno in teoria la qualità del prodotto, e però è così è successo, anche se poi hanno tagliato anche altro. Non è stata una decisione presa a cuor leggero, infatti ora i nostri due Peter e Joel parlano di chi soprattutto è stato colpito in questa pesante ristrutturazione. It's been extremely painful. Journalists have gone from all sorts of desks, but I think broadly they have gone from the correct places. So when the newspapers have made these cuts in the newsroom, have they been logical about it? Have they cut the right journalists for the right reasons, do you think? I think they have broadly. They've cut almost everywhere on almost every desk. So almost every type of reporter has suffered. But I think disproportionately the cuts have fallen in areas where those newspapers are least distinctive. So film reviewers have gone, car reviewers have gone, science reporters have often gone, and general business reporters have often gone. And generally we're talking about regional, local newspapers here that actually can buy in that sort of stuff from the news agencies, can't they? Yeah, so they're bringing in more from the Associated Press and other agencies. They're also buying in more or bringing in more from national newspapers that are part of their groups. Un'analisi molto lucida, sembrerebbe addirittura fredda, però lo dicono, it's been extremely painful, non sono proprio così freddi. Ecco. Quindi it's been, quindi abbiamo questa espressione che naturalmente sta per it has been, che ci indica che è stato un processo lungo, non una cosa che è successa oggi. Painful, naturalmente sappiamo pain è dolore, quindi painful pieno di dolore, painless sarebbe senza dolore. E qui c'è una frase, qui è più che un false friend, impariamo l'uso di questa parola in un altro modo, che lui dice journalists have gone from all sorts of desks. Ecco, abbiamo visto che editor non è l'editore ma il direttore, per esempio editor in chief o comunque il responsabile di un settore giornalistico. Desk naturalmente è la scrivania, però è anche un sottosettore, potremmo dire. Quindi per esempio in una redazione di economia ci sarà il desk dell'economia italiana, per esempio. Ecco, quindi dire che journalists have gone from all sorts of desks, che sono stati tagliati in tutte le parti della redazione, cioè non c'è un settore che è stato più colpito di altri. Everywhere, infatti, è successo un po' dappertutto. They've cut everywhere. Every type of reporters have suffered. Ci sono stati questi tagli che have fallen in all areas, quindi questi tagli to have fallen, di nuovo stessa espressione, stesso tempo verbale di it has been, per darci appunto l'idea che non è stato un processo facile, painful abbiamo detto, e neanche breve. E però adesso, dopo questa lunga ripensamento, perché lui infatti Peter Collins chiede have they been logical, cioè c'è stata una logica in questi tagli, no? Perché a volte quando si ristruttura arriva il ristrutturatore, prende le forbici e taglia dappertutto, ma invece devono fare, come diceva nel pezzo sopra, they have to make business sense, cioè devono avere un senso anche economico, di conti, perché sennò tagliare basta è una misura di breve termine. E quindi alcune categorie, ai noi, sono state più colpite. E queste sono quelle che lui chiama, di nuovo molto lucidamente, least distinctive, cioè quelle che erano una caratteristica meno forte del giornale. Quindi ogni giornale deve individuare sostanzialmente quali sono i suoi punti di forza e laddove non è una punta di eccellenza tagliare. E quindi film reviewers, sorry Marta, i critici cinematografici, to review Ebbene, vuol sì. dire fare una recensione, quindi film review, fare appunto essere un critico cinematografico, car reviewers, cioè i critici di tutto il settore auto, science reporters have gone, often gone, i divulgatori, insomma, a me questo dispiace a me, insomma, però è vero, cioè sono poi specializzazioni che magari soprattutto nell'era di internet, dove troviamo tutto su internet, forse un giornale non ha più bisogno. Soprattutto a livello locale, e qui fa un'altra considerazione che è vera purtroppo dappertutto, anche qui spietata e logica. Quindi they can buy in, usa questo verbo to buy in, avrebbe potuto dire anche buy, cioè they can buy in, lo rafforza, that sort of stuff, quel tipo di notizie, stuff sappiamo che vuol dire roba, ma quindi anche notizie, from news agencies, cioè questo tipo di cose, perché sappiamo che alle conferenze stampa dei film, tu Marta lo sai benissimo, c'è sempre qualcuno di un'agenzia stampa. Ma non è che questi giornali devono essere vuoti, devono concentrarsi maggiormente sui loro punti distintivi, perché dopo questa analisi spietata su dove bisogna tagliare, beh insomma andiamo anche a sentire cosa si può fare, e quindi proseguiamo con questa conversazione nel podcast dell'Economist. I think the question now becomes, what do they do as the economy begins to turn round and as advertising starts to come back? Do they simply allow their profit margins to rise, you know, sort of concentrate on balance sheet issues, or do they try to actually increase their investment in the sorts of areas of coverage where they might be distinctive? Metropolitan newspapers, the concept behind them was that they would bring the entire world to the residents of a particular metropolis. The problem that they face is that the national and the international, and to a large extent the national business staff, can simply be better handled by others. And as they have run into difficulties, they no longer have that monopoly control over advertising that they used to hold. I think the question now becomes, can they turn the areas of coverage in which they are distinctive into a viable business model. Eccoci qua, lo abbiamo sentito, advertisement starts to come back, cioè la pubblicità torna, però cosa succede? Qualcosa poi bisogna recuperare dopo un momento difficile, in che senso? Quindi the economy begins to turn around, quindi c'è il turnaround positivo o negativo, in questo caso positivo, advertisement starts to come back, grande fonte di introiti e naturalmente sappiamo che era crollata la pubblicità, quindi torna, allora adesso cosa si fa? Si chiede giustamente Peter Collins e il media editor. The profits margins can rise. Ovviamente se torna l'advertisement gli utili aumentano, però forse si può anche fare qualcos'altro. Quelli più illuminati non si they will not concentrate on balance sheet issues, cioè non guarderanno soltanto i bilanci, balance sheet è proprio il bilancio, perché allora vedrebbero semplicemente un utile aumentato, grandi sorrisi, continuiamo così. No, they will increase their investments, perché proprio capire questi metropolitan newspapers. Ecco, ci sono i giornali, per esempio, non è il caso del Sole 24 Ore naturalmente, che non sono nati come giornali economici e per esempio di questi argomenti alcuni giornali metropolitan newspapers they have to admit that these issues can simply be better handled by others, cioè possono essere gestiti meglio le notizie di economia ma anche di tanti altri tipi come abbiamo visto da altri, cioè non devono più tentare di bring the entire world to the residents, cioè farlo loro in prima persona. Devi occuparti della tua area of courage. Devi occuparti della tua area of courage because, primo, sempre sull'advertisement, you no longer have the monopoly you used to have, anche perché sappiamo che ormai molto advertisement si sta spostando su internet, quindi sì, l'advertisement is coming back, ma non è che poi tornerà ai livelli di sempre. Non hai poi questo punto, questo monopolio. Non hai più il monopoly, appunto, e quindi they turn, il problema reale, guardate questa frase, nella sua semplicità racchiude un po' il problema che ci stiamo ponendo tutti noi giornalisti, quindi turn the areas of coverage in which they are distinctive, quindi riuscire a trasformare queste aree di coverage, quindi di specializzazione, naturalmente copertura delle notizie, nelle quali si è distinctive, per il Sole 24 Ore naturalmente l'economia e la finanza, into a viable business model. Viable è una parola che mi piace molto, che vuol dire che funziona, quindi che su cui si può transitare, perché naturalmente ha un'origine latina, un viable business model, cioè deve diventare un modello di business che funziona, che ci assicura che questi tagli che hanno fatto per un po' non arriveranno più. Speriamo. Beh, insomma, quindi concludiamo la nostra annata di English 24 pensando all'economia che ricomincia a ripartire e quindi un po' di ottimismo anche per questo nostro settore. Beh, insomma, English 24 si conclude per le puntate nuove questo sabato. Da sabato prossimo riascoltiamo il meglio della nostra annata, ma il giornale resta sempre in edicola per questa puntata. Ringraziamo Peter Bescapè in regia, da Marta Cagnola. E Gina Crivelli. L'augurio di una buona estate.